25 aprile sembrerebbe una giornata, un'unica giornata, la giornata di festa del 25 aprile del 1945, che era la giornata in cui finalmente il popolo italiano aveva raggiunto la libertà. Ma noi, insomma, siamo particolarmente impegnati a far sì che questa ricorrenza non sia una ricorrenza tout court, ma anzi debba essere un percorso di formazione e di costruzione di idee, di pensiero dei cittadini dell'oggi. I cittadini dell'oggi ovviamente cominciamo a curarli fin da piccoli, quando ancora a scuola, frequentando ovviamente gli ambienti in cui gli insegnanti sono particolarmente sensibili, e li ringrazio sempre, perché il lavoro straordinario dell'educazione della scuola è sicuramente particolarmente efficace rispetto a quello che potrà accadere poi nell'arco della vita dei ragazzi. Quindi un lavoro impegnativo all'interno delle scuole, che dura mesi e mesi e mesi, un lavoro ovviamente anche significativo sulla nostra città, che vedrà una serie di eventi, che sono eventi che saranno colti dall'occhio, ma che chiederanno anche l'impegno della nostra mente e del nostro pensiero per continuare a fare memoria, che non vuol dire fare memoria solo di date o di ricorrenze, ma vuol dire conoscere quel che è stato per poter affrontare il futuro nel modo più sereno possibile, cosa che in questo momento stiamo mettendo molto in difficoltà. Proprio a proposito delle scuole, ci sarà la pubblicazione di un fascicolo che verrà distribuito. Sì, è stato realizzato questo fascicolo, che sostanzialmente è una cronologia di date, ma a fianco ad ogni data ovviamente corrispondono gli eventi che sono accaduti dal 1920 al dopoguerra. È un fascicolo, un libretto che consegneremo a tutti i ragazzi di quarta e quinta superiori, perché ovviamente è rivolto a quell'età, ma è rivolto alla cittadinanza tutta, e speriamo che possa non solo arricchire le biblioteche, ma che possa arricchire le menti. Sì, e che mostra Bologna prima, durante e dopo la guerra mondiale, in modo da fare conoscenza e coscienza attraverso i luoghi della memoria, i luoghi dell'architettura. Esattamente così. Il fatto che siano qui in questo libro siano riprese un sacco di una quantità importante di marmi che ricordano gli eventi che sono accaduti sulla città, che io penso sempre che questo sia già un museo a cielo aperto. Un museo a cielo aperto che ci consente di ricostruire la storia della nostra città. E ovviamente noi abbiamo focalizzato il periodo, siamo ampi e abbiamo focalizzato tutto quello che riguarda gli eventi del fascismo, che purtroppo hanno davvero fatto danni inenarrabili anche sulla nostra città. Grazie.